Funtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. E cari amici di Runtime, bentornati a questo nuovo episodio di Quando eravamo futuro, una trasmissione che facciamo qui su Runtime Radio e che si occupa di società e cultura spazio-temporalmente dislocata negli anni 70 e 80. Giustamente questa puntata in realtà poi un po', diciamo, straborda, perché diciamo che è più una cosa che è concernente la fine degli anni 80, un'abbondanza degli anni 90, diciamo così, fino ad arrivare magari, non, secondo me non arriva neanche agli anni 2000, però comunque appartiene, diciamo, a un immaginario, soprattutto quello degli anni 90, che pur rappresentando una grossa transizione dal punto di vista tecnico e tecnologico è molto similare a quello che vediamo anche negli anni 80, quindi cassette, cassettoni, pulsantoni da premere o cose del genere, insomma, e soprattutto tanto analogico, che insomma il pensiero analogico, che era un po' un modo nel quale noi, cioè, approcciavamo nel modo in cui noi creavamo i nostri contenuti. Ma insomma, ne parliamo. Prima di tutto, ovviamente, presentiamo Carlo Sant'Agostino. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Incredibilmente tutti. Puntuale. In orario. Incredibilmente puntuale. Carlo Sant'Agostino, archeologia informatica. Diciamo qualcosa su archeologia informatica. Niente, archeologia informatica, podcast dal 2014, per chi non lo conoscesse cercatelo su tutti i maggiori aggregatori, ora ho imparato a dirlo, hai visto, aggregatori, vedi come dico, so come si chiama. È incredibile, guarda. Dopo un tanti anni. Incredibile, guarda. Lo trovate su tutti i maggiori aggregatori e poi adesso, ultimamente, molto impegno abbiamo messo nel canale YouTube, quindi trovate anche su YouTube il canale di archeologia informatica, dove trovate tanti nuovi video, tra cui gli ultimi in collaborazione con il canale di Davide, Survival Hacking, incredibile. Survival Hacking, Davide Gatti. Ma sì, ma prego, Davide, sei caduto? Davide. No. Non ti sentiamo più, Davide, sentiamo tipo a singhiozzi, tipo quando c'avevi il telefono ETAX, capito? No, perché? Non, ecco, adesso li sentiamo, adesso li sentiamo. Non ho niente di anomalo. No, va bene. Okay. Di solito sono backup, robe così, ma non ho niente. Dicevo, a Carlo lo perdoniamo. Sempre, a Carlo lo perdoniamo sempre. Non ci fa schifo. È lui che non perdona noi, però noi a lui lo perdoniamo sempre. Esatto. E niente. Vero. Come no? Sì. Vabbè, comunque, Survival Hacking, quindi parte il canale, insomma, iscrivetevi, attivate la campanella su YouTube, tanti video in continuazione ogni settimana. Quanti video escono a settimana? Due, mi pare, no? Due, in generale due. Sì. Generale due, in più adesso c'è questa serie, insomma, in collaborazione, tra virgolette, con archeologia informatica. Di che si tratta? Ma niente, è un esperimento che abbiamo iniziato a fare così per, detto, proviamo, ma sta avendo un certo interesse, e poi vabbè, è interessante davvero, dove si chiama Survival Hacking Arcade, intanto per stare sull'argomento, e dove mostriamo delle schede arcade, di gioco arcade degli anni 80, 90, insomma, di quello che sono, magari anche un po' più vecchie, e Carlo ci racconta la storia un po' di tutta questa, di questo gioco, che a volte nasconde un sacco di misteri e di curiosità particolari, e poi lo vediamo per davvero, magari o vediamo una riparazione o vediamo direttamente il gioco funzionare, insomma, poi lo vediamo proprio, lo tocchiamo con mano, prima se ne parla a livello storico e poi lo vediamo tecnicamente, e viene fuori qualcosa di caruccio, e abbiamo deciso di fare una joint venture con archeologia informatica, e quindi esce in doppio feed. Mamma mia, joint venture, è una cosa incredibile, cioè, ragazzi, le parole, quelle io non saprei pronunciare. No, infatti avremmo detto joint venture. Venture, esatto. E quindi usciranno due feed con lo stesso video, lo potete trovare sia su archeologia informatica per chi è legato più a archeologia informatica, e su Survival Hacking per chi è più legato così, e poi c'è un mix di cose, così qualcuno conosce uno e conosce l'altro, e c'è una sinergia tecnologia che certo ci fa diventare un gruppone. Diciamo che per diritto di paternità su Survival Hacking esce un po' prima e noi poi a ruota, insomma, diciamo noi, perché sì, sì, alla fine poi, ma noi siamo tutti una grossa famiglia. Runtime Radio. Radio Geek. Bene, bene, ragazzi, vi faccio entrare nell'atmosfera, va. Dai, eh? Avete alzato le mani? Forza, va? Ecco qua, siete entrati nell'atmosfera, vi siete sentiti, vi sentite ottantizzati e novantizzati, ecco, questo è quando eravamo futuro, insomma, ogni tanto manca un po' di brio noi, soprattutto devi lasciarla tutta la canzone Randy MC, che è bellissima, lo so, però vabbè, poi mi adoravo proprio, lo so, poi in coda la mettiamo tutta, dai, poi arriva la SIAE e ci sì, lega. Vabbè, oramai con quello che stiamo a fare sto periodo la SIAE è proprio da mo che esatto. Un giorno la SIAE ci dice, vabbè, dai, guardate, ve lasciamo stare. Vabbè, comunque, allora, ragazzi, abbiamo un po' parlato già, anche se in maniera indiretta, abbiamo un po' sfiorato quelli che sono il modo in cui noi acquisivamo, insomma, i nostri contenuti, no? Negli anni 70 e 80, abbiamo parlato della pellicola, abbiamo anche sfiorato un po' l'era del video, quindi delle videocassette, delle prime telecamere. Camere, però oggi cerchiamo di rientrare in questo tipo d'argomento, ma farlo in maniera, insomma, un po' più specifica, e cerchiamo di curare alcuni dettagli che magari abbiamo trascurato altre volte quando abbiamo parlato, insomma, delle videocassette, quando abbiamo parlato del porno, diciamo, della pirateria, di tutta una serie di cose che alla fine abbiamo sfiorato di qua e di là, e in questo caso cerchiamo magari di attraversare meglio. Ricordo che in questa puntata ci sarebbe dovuto essere anche Alex Raccu, il quale però ci ha lasciato un audio di 4 minuti che ascolteremo più avanti durante la puntata, quando arriveremo anche il tema a un tema specifico sul quale lui, insomma, ci teneva a condividere un ricordo, ma non ve lo dico subito, sennò vi spoilerò praticamente il tema della puntata. E niente, poi Carlo dice che questo abbiamo concepito virtualmente, cioè nel senso di sì, vabbè, abbiamo concepito una buona idea, un buon episodio, quindi vediamo un attimo di camminarlo bene senza rovinare quello che di buono abbiamo fatto fino adesso. Perché, come abbiamo detto, appunto, abbiamo fatto un discorso precedente su quello che era il mondo della pellicola, oggi invece affrontiamo un po' più quello che è proprio il discorso del nastro magnetico, quindi dell'era dell'on video che insomma non soltanto ci ha permesso di avere contenuti prodotti, insomma, dall'industria a casa, quindi senza dover andare al cinema, quindi i film su videocassetta e via dicendo, ma ci ha permesso anche di produrre tanti contenuti o realizzare tanti contenuti di vario genere, dalle memorie della nostra famiglia, quindi ricordi, insomma, eventi particolari, a eventi sportivi, fino addirittura per i più creativi, dato che c'erano dei motivi abbastanza specifici, magari realizzare anche dei cortometraggi, per quanto amatoriali, per quanto magari approssimativi, diciamo, per certi versi, però sicuramente era un momento in cui si potevano realizzare questo tipo di contenuti. Perché si potevano realizzare questo tipo di contenuti? Innanzitutto per la maggiore accessibilità della materia prima, che erano ovviamente, al di là del costo tecnologico magari del videoregistratore o della telecamera, però qualora si effettuava questo tipo di spesa, poi in realtà il grande problema dell'era della pellicola, quindi delle cineprese, era il fatto che comunque una pellicola, tu compravi una bobina, una pellicola che aveva pellicola, diciamo, per 3 minuti, e quindi tu devi comprare tante bobine che avevano un costo elevato, più ovviamente tutti i costi di sviluppo e via dicendo. Invece la materia prima, quindi lo strumento fondamentale per l'era del long video, era la videocassetta, che magari, indipendentemente da quello che era il costo specifico della videocassetta, sicuramente era una cassetta dei 60 minuti, anche 120, anche 180. Anche 180. Usavo le 180. Ok, poi si diceva, no, che però era meglio non abusare troppo del... I soldi erano quelli, quindi... Sì, no, però se volevi fare il montaggio video per un tuo video particolare del cortometraggio, lo facevi al meglio, usavi le cassette più limitate di tempo che erano di maggiore qualità, ecco. Sì, no, diciamo che poi c'era questa leggenda che si diceva sempre di non eccedere troppo nella quantità di nastro all'interno della cassetta, perché poi sforzava il motore del videoregistratore, no? Perché pesava di più il nastro. No, cioè, comunque diciamo che spesso e volentieri i videoregistratori, diciamo, un po' più economici, con quelle da 180 tante volte si incastrava e poi il nastro era sottilissimo e si rompeva all'istante. Ci aveva il suo contro e il suo pro, insomma. Il pro diciamo che il nastro della videocassetta, forse anche per il modo in cui era incapsulato, diciamo, forse anche meno esposto, subiva molto di meno quei problemi che c'erano le audiocassette, no? Che ogni tanto tu tirai fuori se sentiva male, tu la tirai fuori e c'era pellicola, c'era nastro dappertutto. Succedeva forse anche con le videocassette, ma probabilmente in maniera minore, perché comunque il nastro era incastonato dentro la scocca, anche la parte più esposta, no? Diciamo, non era proprio esposta come succedeva nelle audiocassette. Poi penso che il nastro era pure se più. Si arrotolava era per un problema tecnico del videoregistratore, perché comunque era un meccanismo complesso, una testina rotante, un sacco di pezzi. Ogni tanto qualche videoregistratore, qualche puleggia che non toccava bene, alla fine si arrotolava. Quanti nastri vi si sono bloccati? Mai? Sì, dai. No, penso di sì, non tantissimi, devo dire, rispetto a... Io avevo il mio videoregistratore che non aveva le viti, perché quando mi si incastrava il nastro tiravo via la scocca del videoregistratore da dentro. Armeggiavo per tirare fuori il nastro senza che venisse spezzato. Comunque i fattori primari, ragazzi, erano due, cioè in particolare, no? Uno era l'economicità, come abbiamo detto, perché comunque tu compravi una cassetta che, indipendentemente da quanto costava, comunque ci facevi anche 180 minuti, insomma, volendo, no? Sì, poi non c'era lo sviluppo, non c'era poi lo sviluppo. Se non te ne fregava niente della qualità, come a me, ma della quantità la usavi anche in SP, oddio, no, queste sono quelle cose che facevano male al cuore, perché già, già la qualità era quello che era, no? Poi... faceva cagare. Esatto. Comunque, come accessibilità, possiamo anche dire che la pellicola aveva bisogno dello sviluppo. Esatto, sì, appunto. Questo era immediato. E poi l'accessibilità proprio al prodotto, perché comunque una cosa è andare a cercare il negozio di fotografia, il negozio Kodak dal quale andare a comprare la pellicola, una cosa è andare nei negozi elettronici che oramai negli anni 80 e 90 erano più che riccamente diffusi, se non addirittura nei grandi magazzini, quelli più grossi, insomma, addirittura anche sugli scaffali, insomma, li trovavi le videocassette, e le videocassette le trovavi più o meno dappertutto, insomma, questo penso che... Ecco, per esempio, al di là di Davide, che come sappiamo, insomma, la sua esperienza è più dedicata all'ambito elettronico e musicale, però insomma io so che perlomeno io e Carlo le cose serie e meno serie penso che abbiamo fatte, no, a livello di creatività. Sì, abbastanza, almeno io... Posso raccontare tanti aneddoti, ma chi ci ascolta in maniera continuativa sa che comunque io sono sempre stato, diciamo, abbastanza appassionato di cinema, quindi sicuramente una delle cose che da ragazzo volevo fare era creare i miei filmati, le mie produzioni, eccetera eccetera, e più di me ancora di più mio fratello, che ha tre anni meno di me, fratello che poi l'ha fatto una professione, esatto, sì lui l'ha portata. Io poi ho virato sull'informatica, no? Quindi sono diventato poi programmatore, tutto quanto. Invece mio fratello è sempre rimasto in questo settore, adesso va, insegna montaggio video, fa il professore di montaggio video alla Luchino Visconti a Milano, però ha fatto i suoi documentari, insomma ha tentato la strada di regista, che sappiamo com'è difficile poi questo mondo, quindi fa il professore. Sì, abbastanza, diciamo, particolare, sì, ma certo. Però diciamo che le sue produzioni le ha fatte, ecco. E io e lui da ragazzi eravamo super appassionati di cinema, eccetera, e quindi volevamo fare, e per l'esame di terza media, io che sono più grande, in terza media cosa ho chiesto ai miei genitori? La videocamera, no? Prima avevamo il videoregistratore, mi ricordo che è stata una cosa che appena penso fosse l'80 87, 88 in cui si diffondevano i videoregistratori. Adesso vado a memoria, quindi probabilmente sì, no, anch'io non sbaglio, però la mia memoria, no, prima sto sbagliando, cacchio, dico no, hai ragione, molto prima, perché la videocamera l'ho presa nell'83, quindi ciao, no, ho sbagliato annata. Guarda, ti do un riferimento, io avevo il Betamax nell'84, nell'83, 83, 84. Sì. Fai conto che io già nell'83 ho avuto la 83-84 ho avuto la videocamera, la telecamera con le VHS grosse della Philips, e prima avevamo preso il videoregistratore della Irradio perché era uno dei più economici e costava, l'ha pagato a rate, preso i miei genitori a rate, costava 999.000 lire, quindi era un milione, ma per non essere un milione era un filo meno. E costava tantissimo il videoregistratore appena era uscito, però mi ricordo che lo presero perché comunque io e mio fratello volevamo, ci piaceva tutto quanto, quindi decisero, certo, poi di fare questo investimento. Regalo. Esatto, questo investimento del videoregistratore. E la prima, il primo utilizzo per copiare le videocassette. Aspetta, no, non arriva subito al tema. No, ma penso alla creatività adesso in questo momento. La creatività poi arrivo dopo, perché con la videocamera iniziamo a produrre, okay, di tutto. Okay. Allora, le prime produzioni abbiamo iniziato subito a fare la nostra televisione, che l'abbiamo chiamata Telemango. Telemango, abbiamo iniziato una produzione di programmi televisivi rifatti in casa, quindi sì, il programma della televendita rifatto, le pubblicità televisive rifatte, le interviste per strada, specchio segreto, che poi era la candid camera rifatta, sì, anche quella davanti a casa. Te ne racconto una, praticamente ci siamo inventati il pallone sporcato con la Nutella e facciamo finta di giocare in cortile e che poi il pallone finiva fuori in strada, fuori dal cortile, dal cancello, e siccome noi facevamo finta che il cancello fosse chiuso e non potevamo uscire, chiedevamo alla gente che passava di rilanciarci il pallone dentro. E però il pallone era stato sporcato di Nutella, che sembrava qualcos'altro. Certo. E quindi io riprendevo le persone che quando prendevano il pallone si sporcavano con la Nutella per risultarci. Che bastardi, però. Veramente, no, perché... questo è uno. Ne abbiamo inventati di tutti i colori con la videocamera, veramente. E poi abbiamo iniziato a registrare i nostri primi mini corti. Il primo fu Pallas, che era la presa in giro di Dallas, no? Con la sigla rifatta anche di... eravamo io, mio fratello e Andrea Perotti, che era un nostro amico dell'epoca, e avevamo rifatto Pallas, la presa in giro di Dallas, fino ad arrivare poi al nostro capolavoro, che questo mi ricordo la data, era il 1988, abbiamo fatto il nostro corto più lungo, che è stato I casi dell'ispettore Ulisse, con tutti i nostri amici dell'epoca riuniti, sì, sì, con tutta la produzione proprio, abbiamo fatto la scenografia, abbiamo scritto la sceneggiatura, la trama, gli, sì, attori che dovevano recitare. Poi abbiamo fatto tutte le riprese, il montaggio video con due videoregistratori, gli effetti speciali con l'Amiga 500, con il Genlock, quindi c'era dentro di tutto, proprio un corto completo, che ho salvato in videocassetta e non si sa mai, prima o poi, che lo ripubblicheremo. Allora, intanto saluto in chat Gianluca Zlatko. Non so, Luca S. Tra l'altro, Luca ci dice le cassette anche da 2,40 e da 300 minuti. Sì, vabbè, ma io non lo usavo. Insomma, io penso che lì magari stai a fare una cosa e te si spezza il nastro dentro. Ciao, no. Comunque, questa cosa che tu racconti, che poi tra l'altro anch'io, cioè nel senso, io mi ricordo un cortometraggio girato da noi. Poi ragioniamo anche sulle modalità, perché poi è importante, che si chiama il mostro Petrus, che praticamente noi avevamo questo amico nostro, si chiamava Petrangeli, che noi lo chiamavamo Pedro perché era un po' scimmiesco come soggetto, allora noi lo chiamavamo il mostro Petrus, e abbiamo fatto sto cortometraggio con lui che usciva dalla giungla, cose, insomma tutto fatto in una certa maniera, che poi tra l'altro questi racconti mi fanno anche venire in mente il fatto che negli anni 90, ma anche negli anni fine anni 80, i ragazzi queste cose le facevano molto di più, sì, di quanto, sì, si facciano oggi, e forse c'era anche l'affatto della novità di uno strumento che sembrava così al di fuori della portata, che diventava improvvisamente accessibile e tutti erano molto creativi. Quindi io ne ho visti veramente tanti dei cortometraggi fatti anche dai miei amici, quindi mi sono sempre molto divertito in questo tipo di situazione, insomma. Beh, io sai che poi questo lo ricordo sempre, più che dire che ne facciamo tanti allora e non adesso, ne fanno tantissimi anche adesso, sì, però adesso sì, è molto più accessibile, e poi c'è YouTube, solo che molti anche pensano, un po' cambiato il format, no? Cioè il concetto anche, no? Più o meno, però se guardi ci sono tanti anche che fanno, sì, è tutto più breve adesso, no? Se vuoi i tempi si sono ridotto, quindi adesso lo sketch è nei tempi di TikTok, quindi qualche minuto massimo. Noi facevamo i nostri cortometraggi erano, cortometraggio era 20 minuti, mezz'ora, cortometraggio, sì, se no facevi il film di 2 ore. Cortometraggio, in realtà poi non neanche c'era il concetto del cortometraggio, cioè tu facevi il tuo filmino, no? Lo facevi, esatto. Poi dopo era dei 30 minuti, ma poteva essere anche dei 40, non è detto, insomma. Comunque era per dire che queste cose sono stati disponibili i mezzi per farle, i ragazzi hanno iniziato a farle. Sì, sì, non è una roba che è nata adesso. Molti dicono adesso l'epoca di YouTube, i ragazzi. No, lo facevamo. No. Chi poteva, chi aveva i mezzi, lo faceva già all'epoca. Ne abbiamo le prove, ragazzi. C'era tanta produzione, diciamo che la diffusione ovviamente era locale, certo, era molto minore, certo, perché al massimo certo copiavi la cassetta all'amico dell'amico, quindi sì, era tutto, sì, esatto, localizzato. Questo infatti è un po' il discorso. Allora, prima di arrivare a strumenti un po' più particolari, una cosa importante è che il nastro magnetico, quindi la videocassetta, quindi la telecamera, diciamo, in VHS, prendiamo il VHS come standard, che poi alla fine si è affermato, come abbiamo detto in tante altre occasioni, no? Porta questa sorta di transizione tra quella che era ancora l'era analogica verso invece quello che poi succederà successivamente con il digitale, che portava ovviamente a una sovrabbondanza di produzione dei contenuti, no? Cioè noi venivamo dalla pellicola, dove facevi attenzione a quello che tu riprendevi perché le bobine costavano e duravano poco, il video che invece sapevi c'avevi 120-180 minuti, quindi magari eri portato a riprendere di più, no? Rispetto a invece un concetto che non tutti conoscono, cioè non tutti sanno bene, e questo è il vero pensiero analogico, secondo me era quello del fatto di fare delle riprese con il montaggio in camera. Il montaggio in camera che significa? Che quando tu pensavi alle inquadrature che dovevi fare, oppure alla costruzione della storia che volevi raccontare, tipo io per esempio l'ho fatto in un Natale questa cosa, cioè avevo 16 anni, avevo già pensato, cioè il filmino quando era finito di essere ripreso era già parzialmente concepito per essere visto, cioè nel senso perché non avevi gli strumenti, o ancora stavano arrivando gli strumenti per fare dell'editing o roba del genere. Poi dopo invece vediamo che magari successivamente è arrivato il secondo registratore, il registratore con la doppia piastra, i registratori con le levette, le moviole che ti aiutavano a fare anche gli attacchi più precisi. Quindi dopo gli strumenti sono anche arrivati, però inizialmente tu quello che facevi lo riprendevi già con l'idea di quello che stavi raccontando. Questo è forse oggi è molto, per esempio io lo vedo in tante scenette su TikTok, questo è un po' un concetto che è quasi ritornato, no? Perché sì, oggi li montano, però molti che non sono comunque avvezzi al concetto dell'editing, del montaggio, alla fine li pensano già in quel modo, e questo un po' riporta un po' indietro a questo tipo di meccanica che era divertente, cioè, comunque il fatto che tu già pensavi e per te era una cosa naturale. Oggi se io mi dovessi mettere lì a pensare a una storia da farla senza doverla editare, per me sarebbe impossibile, cioè nel senso oggi chiaramente. No, più che impossibile non lo fai perché c'è il montaggio. Esatto, cioè, esatto. Vai Davide. C'è da dire che, come in tutte le cose, quando c'erano delle limitazioni, il nostro ingegno faceva dei miracoli delle volte, no? Perché adesso che è tutto facile, fai tutto quello che vuoi, riprendi chili di roba e non pensi più a fare le cose come le avresti fatte a suo tempo, che le potresti fare comunque anche oggi, volendo. Puoi fare il montaggio in camera anche sì, oggi. Sì, non è che non lo puoi fare, è che sei abituato a pensare diversamente, capito? Non sei più esercitato, esatto, col pensiero analogico. Fai degli esempi di montaggio in camera che ti ricordi magari. Io guarda, te l'ho detto prima, ho fatto un mi ricordo che ho raccontato in, in 70 minuti praticamente questi tre giorni di questa festa di Natale che abbiamo fatto in famiglia, però alla fine era venuto tipo un lungometraggio, non era una cosa, insomma, poco più di un'ora, però se tu quando lo mettevi, considerando che io avevo fatto ad esempio, vabbè, una cosa che si faceva anche all'epoca della pellicola, però avevo fatto per esempio anche titoli di testa, magari usando del, cioè tipo, che ne so, dei foglietti, delle cose, oppure attaccando delle cose sull'albero, oppure facendo delle panoramiche, dei movimenti fatti in una determinata maniera con, che ne so, l'oggetto che con la scritta sopra e via dicendo, cioè tutto assolutamente fatto in maniera totalmente artigianale, però tu quando infilavi la cassetta, tutto quanto era ripreso e raccontato come se tu l'avessi parzialmente montato. In realtà chiaramente non era rifinito o raffinato così come se tu l'avessi montato, però poi alla fine il prodotto era godibilissimo, anche perché alcune videocamere come quella che c'avevo io della JVC, che era una bella telecamera che poi c'era la versione compatta che costava di più perché era più figo, e la versione quella grossa con le cassette quelle grosse normali del VHS, che era un po' più grande e te la appoggiavi a spalla, ma io la preferivo perché secondo me era anche proprio più usabile come prodotto, perché una volta le telecamere si appoggiavano sulla spalla e ti aiutavano anche a avere stabilità, no? Però alcune di queste telecamere, come quella ad esempio, avevano la possibilità di fare un doppiaggio successivamente, mandando in play, praticamente premendo un pulsante che faceva una riscrittura forse parte audio. Sì, della parte, forse di uno solo dei due canali, adesso non ricordo bene, però insomma, e tu in quella maniera potevi metterci la musica oppure fare uno speaking o quello che ti pareva, e quindi tu alla fine con una sola telecamera e una videocassetta avevi già fatto il tuo lavoro, cioè avevi già raccontato la tua storia in qualche maniera. Poi chiaramente, come dicevamo, la cosa carina è che rispetto alla pellicola, e torniamo sempre un po' indietro, quando tu facevi il filmino del compleanno te lo tenevi tu, cioè se ce l'avevi tu e se arrivavano i parenti glielo facevi vedere. Invece col fatto che queste cose erano comunque altamente duplicabili e non era così complicato farlo, poi alla fine il racconto dei parenti, no, di quella, alla fine la distribuì a tutti i parenti, e se eri un po', diciamo, anche accurato, rifinito, facevi anche una copertina disegnata, fatta in una certa maniera. Ovviamente non c'erano le stampanti e le cose, insomma, che poi dopo sono arrivate dopo, che facevi poi le cose tutte fatte con Photoshop, insomma, però diciamo che se eri un creativo ti ci divertivi a fare sta roba, e quindi questo è già un concetto di montaggio in camera, cioè il fatto che tu pensavi e quello che usciva fuori era semplicemente quello che tu avevi ripreso, che l'avevi ripreso pensando ai tempi di chi l'avrebbe dovuto guardare. Che questa è un po' secondo me la cosa che mi ha sempre affascinato, perché eravamo abituati a ragionare in quel modo lì, capito? Poi chiaramente dopo, quando abbiamo imparato anche a fare dell'editing, abbiamo anche rifinito, insomma, questo è sicuramente Davide, tu stavi dicendo una cosa? Ma no, stavo solo dicendo appunto che di fronte a delle limitazioni, questo vale in qualsiasi campo, uno dà il meglio di se stesso e fa delle cose che, viste oggi, dici: cacchio, hai fatto sta roba con solo una fotocamera, una cinepresa. Sì. E tu, sì, l'ho fatto perché all'epoca c'era solo questo, esatto. Bisognava ingegnarsi, ragionare prima e dire: per fare questo possiamo, se metto la camera al contrario e giro mentre faccio, viene fuori un effetto che la stanza si capovolge, sì, esatto, cadere, esatto, dei fiocchi, sì, di neve, e allora cade, sì, giù la neve. È chiaro che non è che nascevi imparato, cioè tutto nasceva da una sperimentazione che magari avevi fatto dentro la tua stanza, facendo: che succede se faccio così, se faccio quella, e cominciavi a fare tutta una serie di cose che poi dopo applicavi, diciamo, nella storia che andavi a raccontare per i parenti, per gli amici, e quindi poi dicevo, poi ovviamente tu duplicavi queste cassette, gliele davi, e addirittura c'erano rarissimi casi dove certe situazioni, boh, io vi faccio l'esempio, tornando alle audiocassette, la cassetta del Magnotta, no? Voi ricordate, no? Il Magnotta, quello, certo, che della lavatrice, mi scrive i terroristi, sì. Cioè quella, io quando ero ragazzino, io non c'era un mercatino rionale dove non c'era uno che vendeva le cassette, che Claudio Baglioni, Lucio Dalla, quelli che e c'era la cassetta del Magnotta. Quindi ti rendi anche conto quanto per assurdo poi certe cose erano diventate virali al loro modo, cioè nel senso, sì, virali comunque sempre locali, perché così, da che io la cassetta del Magnotta la conosco adesso, perché sì, beh, è, certo, stata tramandata andata sempre nel centro Italia sta cosa, esatto, era. Però era una roba locale, io all'epoca non sapevo chi fosse. No, certo. Ovviamente come voi magari non vi sono arrivati gli Elio e le Storie Tese, vi sono arrivati quando hanno fatto i dischi, mentre a Milano e provincia Elio e le Storie Tese erano conosciuti da anni anche prima che facesse i dischi, perché tutti avevano la cassettina duplicata delle canzoni di Elio. Erano tutte cose molto... Beh, c'è il Magnotta molto, magari a volte è stato avvantaggiato dal fatto che tante radio locali poi l'hanno pure trasmesso, no? Capito? Sì, non so se pure su Radio DJ a un certo punto, però insomma adesso... No, comunque no. Gianluca Mattei dice che la presi e la pagai, cioè è uno di quelli che ha comprato la cassetta del Magnotta. E poi dice il nostro bidello, non so, forse il loro bidello che la spacciava o la faceva sentire. Perché noi abbiamo ricordato più volte che bidelli comunque nei nostri tempi, negli anni 80, non erano solo bidelli. No. Erano spacciatori. Esatto, erano quelli che rimediavano pure le pizzette. Volendo. Ah no, scusa, diceva che Gianluca Mattei e diceva era il nostro bidello, lo conoscevamo. Ah, ok. Era proprio il loro bidello. Ritornando al discorso del montaggio in camera, una cosa che è venuta fuori, cioè l'hai detta Simone, ma non l'hai detta esplicitamente. Si capisce, però è importante ricordarlo, cioè il montaggio in camera era che tu pensavi tutto nella sequenza in cui poi l'avrebbero visto, quindi giustamente se io pensavo un filmato, non è che quando avevo la telecamera, non è che potevo girare, allora questa scena la rigiro adesso, poi dopo la mettiamo dopo, no, non potevi fare così, quindi dovevi fare la sigla e iniziare a girare la sigla, poi l'inizio, poi il mezzo, poi la fine, la sigla finale, e le giravi in sequenza. Esatto, doveva essere tutta la sequenza che poi dopo dovevi rivedere all'inizio, perché non potevi spostare, cioè quando hai iniziato a far così, quando abbiamo avuto due videoregistratori, infatti anche la mia è stata un'evoluzione, i primi telemango erano girati, giravi così come giravi, esatto. Poi dopo Pallas uguale, l'abbiamo girato, lì già abbiamo iniziato a usare degli effetti di camera, ma era comunque in sequenza. I casi di Ispettore Ulisse invece era proprio montaggio, avevamo due videoregistratori, l'amica che faceva il titolatore, insomma tante cose, però tante cose le rigiravi comunque già sapendo cosa stavi facendo, tipo gli effetti speciali tra virgolette dell'epoca, certo. Mi ricordo l'effetto speciale c'era una scena col teletrasporto, non alla Star Trek, ed era registri, stai parlando, pausa, tutti fermi, congelati, non muovetevi, arriva la persona, tac, riprendi a girare, esatto. In modo che puff compare dal nulla la persona e tutti dovevano stare nella posizione fermi immobili. Sì, che poi più o meno era come si faceva realmente, perché poi se voi considerate che il primo effetto speciale nel mondo del cinema risale agli anni 10, sì. Proprio perché in realtà fu accidentale, siccome che una volta le cineprese, essendo meccaniche, e non erano meccaniche autonome, ma erano meccaniche a mano, quindi praticamente se l'operatore per qualche motivo si fermava per un secondo, e un secondo vuol dire 24 fotogrammi che partivano, e quindi loro si sono ritrovati questo filmato dove c'era una persona che parlava, dietro passava un tram, a un certo punto il tram sparisce, e lì poi dopo, capito, cioè, è da lì che poi sono nate tutta una serie di sperimentazioni sul fatto di persone che appaiono, spariscono e via dicendo, che poi alla fine tante cose comunque si ricollegano in un modo anche affascinante, perché dai, tutto sommato era figo, insomma. Sì. No, era molto, era un altro mondo che ovviamente, diciamo, muoveva i suoi passi con la tecnologia dell'epoca, le cose che adesso siamo abituati, e a quei tempi invece erano sperimentazioni, insomma, ancora tutte novità che stavano arrivando, come raccontiamo spesso quando parliamo di quegli anni, gli anni 70, 80 e anche parte degli anni 90, il mondo è cambiato completamente, quindi noi abbiamo assistito alla transizione, a questa transizione. E c'è la nostalgia, c'è anche l'orgoglio di averci fatto parte, dai. No, ma scherzi, io guarda, devo dire la verità, cioè, rispetto a tante altre stupidaggini, alla fine questo mi ha permesso di sfruttare comunque anche la mia creatività, io mi sono divertito tantissimo con queste cose, e questo è un po' una cosa, però chi è Viola di noi? Rosa? Io. Ok, allora poi dopo diciamo, ma a sti cazzo dei videoregistratori, al di là di voi che facevate i filmini, a che servivano? Beh, io penso che, Davide, sta a te magari, se vuoi spiegarcelo, uno dei motivi principali che insomma è stato iperusato era quello del poter registrare i programmi in TV, no? Sì, esatto, era una sezione che non avevi inserito perché c'era tanti. Sì, hai ragione. Infatti. Dico, in realtà lo scopo iniziale è che abbiamo usato tutti, poi dopo che sia stato efficace, nel mio caso no, perché credo tutti noi abbiamo registrato milioni di cose, ma poi ne abbiamo viste tipo un decimo di quello che abbiamo registrato. Abbiamo accumulato, come sempre, un sacco di cassette con tutte le serie di Star Trek, di tutte le serie che volevamo per possederla, per il gusto di possederla, ma non averla poi mai vista. E questo, vabbè, era un caso. E poi, vabbè, io volevo ricordare il mio punto di vista tecnico, cioè quella distesa infinita di videoregistratori a casa di tutti con gli 0000 lampeggianti al posto dell'ora, perché nessuno regolava mai l'ora dei videoregistratori. Io sì, però che ero l'eccezione. No, in realtà lo facevo pure io, perché poi dopo mi dà fastidio. Cioè, esatto, sì, comunque, eravamo in pochi. Certo. Dove andavi a casa di qualcuno era sempre lì che lampeggiava, il che voleva dire che nessuno aveva mai usato il timer, no? Ma quella volta che ti serviva usare il timer, mi ricordo che anch'io stesso soffrivo parecchio, perché era sempre un casino programmare sti timer e non sapevi mai se avresti potuto registrare quella, sarebbe partita la registrazione nell'ora in cui tu pensavi di averla impostata, e ogni volta tiravi fuori il manuale e schiaccia qui, schiaccia là. Mi ricordo se posso citare un aneddoto riguardo a questo, comprai appositamente un videoregistratore della Panasonic che aveva una programmazione del timer tramite una penna ottica che leggeva dei barcode e poi trasmetteva la programmazione in infrarosso al videoregistratore. Ecco, Madonna, era comodissimo. Madonna, perché comunque i videoregistratori avevano un'interfaccia, li avevano inventati dei tecnici della NASA, non li avevano pensati per la casalinga. Cioè, mio padre e mia madre non sono mai riusciti, penso, in vita loro. Diciamo una cosa, che è vero che alcune molte cose che noi registravamo e poi dopo non le vedevamo, però è vero pure che invece a volte magari gli eventi importanti, o che ne so, io mi ricordo quando sono stato in Nuova Zelanda nell'87 c'erano le partite di qualificazione agli europei dell'88, io non le potevo vedere le partite, e allora mio padre me le registrava e quando sono tornato me le sono viste. Poi alla fine però c'erano due elementi, ragazzi, nel videoregistratore, due elementi, uno tecnologico, uno ipertecnologico, che proprio era il futuro, cioè era quello che io te la faccio, brutto sistema televisivo di merda, che era praticamente, uno era il timer, quello che diceva appunto giustamente Davide prima, che di solito era interno al loto, cioè nel senso, tu andavi, cioè, sarà partito il videoregistratore. E il secondo era il sistema di cancellazione, anzi di pausa durante la registrazione per l'eliminazione delle pubblicità, che secondo me non ha mai funzionato qualcosa, cioè, nel senso, non so se ve lo ricordate, no. C'era. Sì, me lo ricordo, ma non funzionava perché erano fatte per uno standard, se non ricordo male, americano, statunitense, che mandava un segnale prima delle pubblicità eccetera, che in Italia non c'era e quindi da noi non andavano. Esatto, però ce lo vendevano come rimuove le pubblicità automaticamente. Esatto. Poi alla fine non funziona. Esatto, no, perché infatti te lo vendevano così. Poi io non penso che abbia mai funzionato. Però tu hai ricordato un'altra cosa: che io quando registravo i miei Star Trek, ero lì pronto come tipo un razzo, appena iniziava la pubblicità mettevo in pausa e stavo lì a guardare le pubblicità finché non finivano, e appena finivano riprendevo, così avevo le registrazioni senza la pubblicità. Ma tu eri già preciso all'epoca. Però diciamo anche un po' maniacale, no? Nel senso, no, però in realtà pure io ci tenevo che le cose che registravo anche lì, no? Cioè, nel senso, io poi a volte, nel senso, mi dicevo sempre, poi ci farò un montaggio, poi alla fine tante volte, l'80% delle volte non ci facevo niente, però ecco, cioè, mi ricordo che insomma, per esempio, io registravo tutti quanti i servizi delle partite di calcio della domenica, però i servizi quelli brevi, no? Quelli che facevano vedere, insomma, e praticamente alla fine io mi ritrovavo con sempre sulla stessa cassetta nel punto preciso, quindi alla fine del campionato mi ritrovavo tutto il campionato in 30 minuti. minori praticamente, ed era una cosa che mi piaceva tantissimo sta cosa. Poi ma capisco, ma in realtà noi sapevamo che potevamo fare delle cose e quindi alla fine le facevamo anche solo perché le potevamo fare, capito? Esatto. Non perché ci servisse veramente. Per esempio mio padre, che vabbè, era un target diverso, lui registrava i festival di Sanremo, i concerti musicali, i concerti di Capodanno. No, ma quello lo facevo anch'io, nel senso, il festival di Sanremo lo registravo perché poi ci facevo la cassetta audio. Sì, esatto. Bravo. Per ascoltarsi la musica. Bravo. E anche il concerto di Capodanno, penso mio padre, poi per riascoltarselo, lui si ascoltava sempre la musica in cuffia. Poi sai, tu lo fai partire il videoregistratore, poi se non lo guardi lo ascolti, non è che è un problema. Poi tu immagina l'audio preso in una videocassetta da un segnale televisivo. No, ma guarda che l'audio per assurdo nelle videocassette veniva registrato con un'ottima qualità, era il video che faceva sì, sì, vabbè, però l'audio era molto buono invece. L'audio è cominciato a diventare stereo credo negli anni 90, mi sa. Comunque, io vi racconto questo aneddoto che non c'entra niente, però vedete poi i flash che ci facevamo quando sei ragazzino e ancora non c'hai la cognizione tecnica, no? Allora io mi ricordo che eravamo a casa mia in campagna e mio padre aveva portato il videoregistratore, l'aveva attaccato proprio per registrare il Festival di Sanremo, ma noi questo Festival di Sanremo lo vedevamo tramite una televisione in bianco e nero, perché quello c'era lì, insomma, non è che mio nonno c'aveva quella televisione lì. E quando siamo tornati a Roma, io mi ricordo che la prima cosa che ho fatto quando abbiamo rimontato tutto è mettere sta cassetta al Festival di Sanremo, perché io volevo sapere se l'aveva registrata in bianco e nero a colori. Cioè, giusto, non lo sapevi. Non lo sapevo. E quando ho visto che in realtà l'aveva registrata ovviamente a colori, perché cioè, la prendeva dal segnale dell'antenna, e cioè, incredibile, cioè, era proprio una cosa. E vabbè, questi sono i trip che te facevi da ragazzino in un mondo in cui era tutto così ingenuo e romantico. Esatto. E comunque adesso, giusto per rimuovere un po' l'ingenuità, l'abbiamo già detto in un altro episodio apposito, quello della pornografia, ovviamente registrazioni tipo alle 3 di notte, sì, 4 di notte. Io ci ho fatto diverse figure del merda con sta roba. Io anche lì non ero normale, perché io alle 3 di notte, 4 di notte registravo le puntate di Star Trek. Sì, però c'era una volta ogni tanto potevi registrare qualcos'altro, perché te ne bastava una o due di quelle registrazioni, non servivano molte. Esatto, uguali, sì. Anche 10 minuti servivano. Sì, sempre uguali. E la fantasia. Sì, no, ma c'è Luca che ci scrive in un commento che dice: crossover con Quando Eravamo Futuro su Spazio 1999. Montato un video di una gita alla Festa dell'Unità di Bologna del 94 con sigla di Spazio 1999, compresa di simbolo del PDS che precipita sulla Luna tipo Aquila in stop motion, agghiacciante. Beh sì, abbastanza. Tra l'altro sta cosa dello stop motion mi fa ricordare che quella telecamera JVC che c'avevo io, che comunque era una telecamera con i controcoglioni, che ci pensa. Ecco, oltre... non nascondiamo che tu hai avuto comunque una dotazione che a quei tempi non allora io c'avevo tutto il sistema Betamax Sony con una telecamera che penso che tutto quanto sarà costato 20 milioni a mio padre, penso, perché solo la telecamera era una telecamera della Madonna proprio, che mi rubarono dentro un ascensore una volta, perché io poi alla fine ci andavo in giro a fare interviste alle straniere con questa telecamera. E comunque vabbè, al di là di questo, in realtà c'avevo poi questa, mi comprarono dopo quando ci rubarono questa roba, mio padre poi prima si incazzò molto perché per lui comunque ci teneva a quella cosa, poi si rese conto che alla fine il dispiacere era più per me che per lui, perché io alla fine la usavo. Mi comprò questa telecamera della JVC che appunto, oltre ad avere questa cosa del doppiaggio dell'audio, quindi la sovraincisione dell'audio, aveva anche il pulsantino dello stop motion, che sembra una cazzata perché tu quando eri ragazzino non lo capivi a che ti serviva. Poi in realtà io ci facevo le scritte che si componevano, cioè nel senso, non è che avevo la cognizione esattamente di che cosa fosse lo stop motion, però mio padre poteva fare il passo uno. Esatto, poteva fare il passo uno. Esatto, però mio padre mi spiegava: vuoi fare i cartoni animati? E allora io dico: vabbè, i cartoni animati è un po' complicato. Allora io facevo, che ne so, le scritte che si componevano praticamente, no? TTT che praticamente le lettere che arrivavano, insomma, ecco, cose così, insomma, che alla fine era figo, dai, comunque averci con questi strumenti era molto molto molto divertente. Io direi che a questo punto, caro Carlo, arriviamo nel capitolo più interessante, perché secondo me è stato proprio la cosa che tutti abbiamo fatto, usato e abusato in particolare, ma che poi si declina in tantissime cose, cioè la duplicazione, perché praticamente al di là di leggende metropolitane e cose vere anche dal punto di vista tecnico, la duplicazione era forse un po' come si faceva un po' con le audiocassette, quando si faceva la cassettina per l'amico, oppure lui c'aveva magari in cassetta o in disco ricco, c'aveva magari quel tipo di album, tu lo volevi, non c'avevi soldi per comprarlo, lui te lo registrava. La stessa cosa più o meno facevi anche con le videocassette, che come abbiamo detto, magari se tu avevi la giusta strumentazione, che a volte bastava semplicemente averci due videoregistratori collegati in parallelo, e alla fine comunque duplicavi da una cassetta all'altra. Poi c'era anche chi era iper organizzato, che magari c'era 3-4 dei videoregistratori, quindi uno faceva da... arriviamo più avanti, esatto, cioè, esatto. Oppure c'erano anche quelli, appunto, come dicevamo prima, magari con il doppio nastro, cioè nel senso che comunque aveva due ingressi, uno era l'input e l'altro era l'output, quindi insomma alla fine cioè, comunque... No, io mi ricordo che le prime volte per l'idea, appena hai avuto videoregistratore che hai iniziato, c'erano le videoteche, noi ce le ricordiamo, magari esatto. I ragazzi di adesso non sanno più cosa sono, ma erano i negozi dove tu andavi a noleggiare, esatto, dove andavi e c'avevano tutto, perché un film comprarlo in VHS costava un sacco di soldi, sì. Non so se ve lo ricordate, 100.000 lire, una roba, sì, capace, 80, sì. 90, 100, 120.000 lire, costava tantissimo comprare un film in videocassetta, quindi li affittavano, cioè tu andavi nelle videoteche che avevano tutti i film, che ogni mese uscivano, c'erano le videoteche che poi ti davano anche il cataloghino con le prossime uscite, sì, cosa sta arrivando, le prime visioni, insomma c'era di tutto questo circolo che poi non esisteva Netflix eccetera, anzi Netflix in America esisteva, esatto, sì, in America esisteva, lo faceva per spedizione per posta, no? Esatto, sì. Comunque era le videoteche, ogni paese a un certo punto, prima solo nelle città, poi ogni paese aveva la sua videoteca e così via. Quando tu andavi in videoteca e affittavi questo film, andavi a casa, lo guardavi, però poi lo dovevi ridare perché l'affitto durava un giorno, due, no? Giorni, lo dovevi, esatto, dare riavvolto, perché sennò prendevi una, esatto, multa. Infatti poi vendevano dei riavvolgitori, no, sì, infatti poi la cosa della multa è andata a cadere perché tanto se li riavvolgevano da soli, quindi vabbè, comunque era tutto questo sistema. E tu a casa però dicevi, cacchio, però se riuscissi a copiarla, perché tu, certo, quando c'era un film in televisione lo registravi, no? E allora poi io, quando non so, penso anche voi l'avete fatto, ma quando registravi un film in televisione che era un film che volevi tenere via, che ti piaceva, lo registravi, poi dopo facevi tutta l'etichetta bella, sì, io, sì, la disegnavo, sì, con, sì, la scritta, no? Top Gun col simbolo tutto disegnato, con vabbè, tutte quelle robe lì. E quando avevi la videocassetta, dicevi, come faccio a copiarla? E allora le prime volte, quando non si era già difficile avere un videoregistratore, figurati due, ti si ingegnava e dice, come possiamo fare per copiare sta cassetta? L'ideale sarebbe stato avere un amico vicino che aveva un altro, esatto, videoregistratore, si incontrava e uno andava dall'altro, esatto, e molti lo facevano. Però io abitavo a Settimo Milanese, che era in provincia, e casa mia non era vicinissima alle altre case dei miei amici, comunque eravamo in campagna e c'era un po' di distanza. Poi staccare un videoregistratore non era una cosa semplice, che erano cose fatte per stare in casa attaccate al TV, spesso incastonate nei mobili, già solo pensare di staccarlo poi con quello che costavano, poi non, esatto, è che potevamo andare in giro con quella roba lì che costava, esatto, un milione. Però è iniziata l'epoca delle videocamere, no? E c'era magari l'amico più ricco che già ce l'aveva subito. Io mi ricordo un nostro vicino di casa che ha avuto una delle primissime videocamere che sono uscite, che era una Video 8, però della Sony, che usava le cassette Video 8 della Sony, che non erano le VHS, no, erano, no, diverse, sì. Però era una videocamera. E allora cosa abbiamo fatto? Siccome la videocamera era per sua nascita portatile, allora mio amico veniva a casa nostra con la videocamera, attaccavamo la videocamera al videoregistratore, io facevo partire il film e lui lo registrava sulla Video 8, il film. Dopodiché dalla Video 8 ripassavamo di, Madonna, nuovo alla VHS. La qualità finale, eh sì, lo schifo, eh sì, però certo, perché ogni, essendo analogico, cosa che dobbiamo ribadire perché forse abbiamo qualcuno in ascolto che non lo sa, nell'analogico non è come il digitale che la copia è identica all'originale perché è una copia di byte, di file, no? Quindi stai copiando le stesse informazioni. È un segnale elettromagnetico che si deteriora, che ovviamente si degrada nel passaggio, quindi se tu parti dall'inizio e lo mandi nell'altro hai un segnale, ha una registrazione che è un pelino più brutta di quella di partenza, e più volte fai questo passaggio più il risultato sarà scadente, quindi già farlo due volte, uno, due, tre, torna indietro, alla fine avevi una copia. Però diciamo, ma ricordiamo che noi eravamo preparati per questa cosa, noi guardavamo delle robe indecenti, ma le guardavamo lo stesso. Vabbè, sì, fosse... noi non ci interessava, anzi pensavamo che fosse un'ottima qualità. Su questo forse ho un aneddoto che ho raccontato già un'altra volta. È successo, io mi sono sposato nel 1998 e nel 1998 si stavano diffondendo i primi lettori DVD. Il DVD muoveva i suoi primi passi, diciamo, in quell'epoca, verso la fine degli anni 90, no? Si stava diventando popolare. E quindi quando mi sono sposato io ho messo il lettore DVD a casa, no? E avevo iniziato a vedere i film in DVD e non più i film in VHS, però avevamo ancora il videoregistratore, perché per anni è rimasto il videoregistratore e il lettore DVD affiancati, che ce li avevi comunque perché magari avevi tante videocassette. E mi ricordo benissimo come se fosse oggi con mia moglie, ancora prima che nascesse mia figlia, vedevamo dei film, abbiamo visto per un mese tipo tutti i film, prendevamo i DVD e guardavamo i film in DVD. A un certo punto un giorno abbiamo deciso di guardare un film che avevamo in VHS, nella videocassetta, l'ho messo su e iniziava con una scena buia di notte e mia moglie: si è rotta la televisione. E io: no, è così che si vede la VHS, perché vedeva il nero con tutte le strisce di blu in mezzo, no? Perché sai che il nero pieno sulla VHS, sì, cioè la qualità c'era, passavano quelle strisce di blu, quei lampeggi, eccetera. Ed era una videocassetta originale, una sorta di rumore video poi alla fine. E mi ricordo mia moglie: si è rotta la televisione. No, non si è rotta, è che non siamo più abituati alla videocassetta. Ma sì, pensa come fa l'abitudine di vedere una roba brutta. Sì. Allora, io vorrei ricordare una cosa, che i film in home video dei film, chiaramente, che tu vedevi al cinema, erano riportati su cassetta, ovviamente con l'impatto della risoluzione della pellicola in generale, che ovviamente essendo un prodotto di alta qualità analogico, tu lo vedevi proiettato al cinema e c'era un dettaglio che era quello, ovviamente riportato in una videocassetta, che insomma già lo standard televisivo era quello che era. In più ovviamente le cassette credo che degradassero ancora un pochino di più, no? il segnale, se non sbaglio, comunque stavamo sempre lì sulle 200 linee più o meno, no? In più i film erano croppati ed erano croppati in 4/3, e voi dovete considerare che un film quando era buono era in formato standard, diciamo, che oggi definiremo 16:9, se no era di solito in panoramico, quindi in CinemaScope, in 2:35, in formati anamorfici, quindi erano belli estesi. E quando tu praticamente vedevi questi film in videocassetta, praticamente tu perdevi un tre quarti no, ma almeno la metà di quello che in realtà era inquadrato in quel momento, in quella scena. Quindi a volte, e questo si nota su alcune vecchie videocassette, soprattutto nei western, dove durante i titoli di testa, allora appariva praticamente il formato diciamo originale, che però ovviamente poi l'immagine diventava troppo piccola per il tipo di formato, quindi poi dopo, quando finivano i titoli di testa, ritornava tutta un'altra volta in 4/3, e questo chiaramente era un po' una qualità. Più immaginate che tante volte noi, come diceva Carlo, andavi a noleggiare il film che era tra l'altro già stato visto decine e decine di volte, era già passato su testine, e tu magari te lo duplicavi anche, insomma alla fine il prodotto finale che tu ottenevi dentro casa, essendo, come abbiamo detto, insomma un prodotto analogico e non digitale, era la zozzeria, cioè nel senso, diciamoci la verità, così come dicevamo anche la duplicazione delle cose che facevamo noi, a forza di duplicarle agli altri o che gli altri duplicavano per gli altri che duplicavano, insomma, è come... eravamo sempre lì alla, se chi aveva la manopola, che aveva i pulsanti del tracking, eravamo sempre lì a mangiare il tracking, perché... esatto, e praticamente insomma è come, no, nella fantascienza, no? La clonazione porta sempre un costante degrado, no? Quindi clonare da un clone, no? E la stessa... che alla fine le più brutte diventavano quasi in bianco e nero, alla fine perdevi quasi, sì, il colore, no? Vedevi delle strisce di colore bianco, ma... e nero, c'avevi questi lampi di colore in mezzo al bianco e nero, ma anche l'audio dopo ovviamente piano piano cominciava, insomma, alla fine era una zozzeria, però era il nostro modo di diffondere comunque i contenuti in qualche maniera. E questa cosa dei, cioè questa cosa dei film in particolare, era un po' una diseducazione alla visione del film. Infatti io mi ricordo che ci fu una polemica proprio di George Lucas, lui dice, cioè nel senso, alla fine più della metà di quello che noi realizziamo in una scena viene completamente ucciso dalle videocassette. Però è anche vero che George Lucas, pure tu facevi le videocassette, cioè non è perché che... ci guadagnava i soldi. Ho capito, però dopo che c'è, fai pure la polemica, i soldi non hanno colore, ho capito, allora poi c'è, fai pure la polemica sopra, è stupido, insomma. Diciamo che, ecco, c'era più il gusto di andare al cinema, quello sì, sì. Cioè, quello un po' si è perso, secondo me, cioè, il sì, fatto che adesso in casa comunque abbiamo un'ottima qualità in generale tra impianti, sì, audio e video, sì, TV, sì, eccetera, ci ha fatto un po' perdere il senso di andare al cinema, anche se il grande schermo rimane il grande schermo, sì, però sì, adesso effettivamente c'è solo quello, cioè c'è solo, però secondo me schermo. Guarda, sono due cose, si pareggiano, non si pareggiano, in realtà vanno tutti verso la cosa che dici tu. Abbiamo perso il gusto di andare al cinema, uno perché oggi abbiamo una tecnologia dentro casa dal punto di vista audiovisivo che, anche se vai magari a perdere qualcosa, comunque è più che soddisfacente rispetto al passaggio dal passato. Due, perché oggi la proiezione al cinema non è più la stessa cosa, cioè oggi è comunque anche lì una proiezione digitale che comunque alla fine secondo me fa perdere proprio quella pastosità, quel senso di proiezione che alla fine c'aveva proprio i film della volta, che erano in pellicola. Oggi in pellicola non c'è più niente, non esiste la pellicola, ragazzi, cioè oggi si no, dice però diciamo che se vuoi la simuli, quello lo sì fai, sì, la simuli, però non è la stessa, cioè nel senso, a meno che non vai in un cinema con un impianto di proiezione fatto con i controcoglioni. Io per esempio con Michela recentemente sono andato a vedere Le Otto Montagne, che è un bellissimo film, insomma, tratto da un romanzo italiano, che come ogni tanto esce fuori, perché mo c'è il vezzo del momento, è in 4:3, quindi tu, se tu stavi al cinema, vedevi praticamente l'illuminazione dell'area dei 4:3. Invece tu oggi c'hai una proiezione totale su tutto lo schermo, quindi vedi quel grigino, no? Che non è proprio, sì, nero, e poi vedi il 4:3, che però si perde un po', perché chiaramente non c'è il netto contrasto tra la parte illuminata e la parte non illuminata. Quindi questo ti fa perdere proprio la magia del fatto che tu stai a vedere la proiezione. E purtroppo questo è un dato di fatto, no? Nel senso, quindi sai, tutti questi aspetti alla fine comunque in qualche maniera, però poi queste sono cose un po' da maniaco come me, sì, cioè, sì, nel senso... però diciamo che, per dirla in parole povere, comunque a parte il grande schermo non hai più quella differenza. Una volta tu andavi al cinema, avevi tutta un'altra visione rispetto a casa, completamente un'esperienza, sì, completamente, sì, diversa, assolutamente. E adesso non è più così. Comunque, un'altra delle grandi maledizioni dell'era del digitale, che secondo me poi influenzava anche a volte, perché tu magari prendevi la tua telecamera VHS, l'attaccavi al tuo proiettore, al tuo videoregistratore VHS con la presa SCART, lo mettevi in duplicazione e te ne andavi, perché stavi a fare, e magari la presa SCART, come sapete, insomma, erano delle prese di cartone fatte con il connettore più brutto della esatto, storia, anche il nome è brutto, no, ma al di là del SCART, perché te lo dice proprio, da proprio questi l'abbiamo fatto con gli SCART di quelle che ci avevamo, perché esatto, non solo era assolutamente indecente, si danneggiava facilmente, e a discapito ovviamente della qualità, della visualizzazione. Cioè, capitava che a un certo punto diventa tutto giallo, ad esempio, per capirci. Sì. Tu magari Scarta aveva un unico vantaggio, cioè che raggruppava tanti tipi di connessioni in un'unica presa, ma era l'unico vantaggio che aveva. Il resto era tutto un disastro. Sì, ma era di plastica. Cioè, capito qual è il problema? È che avendoci tutta quella serie di piedini, se quei piedini ovviamente si sorcevano subito, quindi le bestemmie con la presa scarta, ragazzi, ma pure a ficcarla dentro, perché a volte il televisore, cioè dovevi andare col braccio dietro, cercate spigne questa presa scarta e la rovinavi chiaramente. E però quello c'era, stava dentro, si staccava, si rompeva, aveva un senso di inserimento con una piccola parte protuberante che tu la infilavi, era sempre alla rovescia, cercavi di farla entrare alla rovescia, la rompevi, la piegavi, la rompevi, certo. Sì. Guarda, proprio di recente vorrei dire a una manifestazione che abbiamo appena fatto, io la mia, mio aggeggio per vedere le schede archiede esce con lo SCART. Ecco, ho infilato lo SCART nel TV che c'era lì, un tuo TV, ho tirato fuori lo SCART e il pezzo di ferro dello schermino intorno è rimasto nella TV. Hai capito qual è il problema? Cioè, sai quante me ne ha fatte di la presa SCART? E quella penso che insomma in quell'era lì è la cosa che mi manca di meno in assoluto. Sì, infatti io quando mi sono evoluto un attimo, appena ho iniziato a capire come funzionava, tutte le mie prese audio video erano o BNC o al massimo era il super video, quello e comunque avevo tutti gli adattatori, cioè appena c'era una scarta ci incastravo dentro l'adattatore che poi usciva con il super video e il video composito e lo stereo con i plug e la cosa, quindi non le usavo più come connessioni pure, diciamo, SCART, a meno che non fosse una connessione da fare una volta che poi rimaneva lì fissa, allora magari mettevi la SCART, però anche lì andavi a prendere la SCART quella di alta qualità, quella che ti costava, quella che aveva i pin dorati, che il cavo grosso, perché poi l'altro problema della SCART, esisteva una SCART di qualità, quindi sì, ne ho una qua che erano fatte apposta, sì questo patrimonio. No, c'era le SCART a un certo punto, quelle cinesi, c'è veramente un cavettino del tubo, una schermatura ridicola e funzionavano, andavano bene, ma si rompevano a guardarle, erano da usarsi una sola volta e poi comunque la qualità andava bene perché era corta mezzo metro, ecco. Sì. Poi diciamo che la mia passione dell'informatica più il video mi ha portato poi anche a vantaggiarmene da un punto di vista lavorativo, perché io poi in questo campo poi sono andato avanti nei miei primi lavori, diciamo anche abbastanza seri, sono stati appunto nel campo della TV, ho iniziato a lavorare per le televisioni in quella parte dell'informatica nascente della metà degli anni 90, che ha iniziato nella metà degli anni 90 è iniziata la transizione verso il digitale, no? Quindi la prima cosa sono state le titolatrici, poi l'inizio del montaggio sempre non lineare, qui magari parlo un po' tecnico perché poi magari uno non sa cosa montaggio non lineare. Io direi che di questa cosa, quindi, però infatti te ne volevo dire che ne faremo una puntata, cioè proprio di questa parte qui, proprio perché dovresti avere anche il contenuto di Alex, Sì, no, ma adesso ci arriviamo. Infatti, prima dell'ultima parte che te la dedico a te, di quello che succedeva a Casagatti, Andrei, dato che siamo. Questa è una No, cavolata. Vabbè, però poi ce la racconti, ci chiudiamo la puntata. Però diciamo, intanto, vabbè, Luca S dice: fino a che non è arrivato il Macrovision, complica un po' tutto. Bah. Più o meno. Bah. Diciamo, bah, è durato poco la complicazione del Macrovision. Lo dice come Davide, come si faceva a sproteggere il Macrovision. Diciamo che è stato sicuramente un deterrente, perché gran parte delle persone magari non era attrezzato, non sapeva e non capiva come mai non funzionasse. Dopo, chiaramente, quando a un certo punto la cosa è diventata un po' più famosa, come diceva prima Carlo, ma lo diceva fuori trasmissione, lo vendevano dappertutto, in GBC, nei negozi più importanti vendevano sto scatolotto che tu lo mettevi tra il videoregistratore A e il videoregistratore B e il Macrovision, tanti saluti. Esatto. Ed è diventata una cosa che è stata una protezione che ha fatto da deterrente, come tutti i sistemi di protezione che ci sono adesso sugli ebook, su qualsiasi cosa, che bloccano, diciamo, il 50% delle persone che non ha idea di che cosa fare, ecco, ma in realtà poi si protegge tra virgolette tutto. In quel caso non c'era molto da fare, si sfruttava una piccola pecca del controllo automatico del guadagno che veniva preso per il culo per certe cose, cioè nel senso no, il controllo automatico del guadagno non gliene fregava niente se il segnale faceva delle robe strane, lui regolava e si vedeva bene, mentre invece il videoregistratore non aveva il controllo automatico del guadagno e registrava tutte le schifezze che si vedevano, tutti gli sfarfalli, le robe, flash eccetera. E comunque vabbè, vendevano questi oggetti, li vendevo anch'io dove lavoravo in CKE, li vendevamo sia in kit che venivano ovviamente venduti non come cose che rimuovevano il Macrovision, erano dei filtri per migliorare la qualità della registrazione, no? Poi puta caso. No, perché comunque era anche un amplificatore, cioè magari faceva anche qualche miglioria circa. Certo, avevano anche i controlli quelli per il contrasto e la luminosità, esatto, qualcosa, il colore, esatto, cioè, quelle cose lì. C'era un minimo di miglioria, più ovviamente tanto che c'erano. Scusa, scusi, ma no, ma in realtà quello era un effetto con la, cioè nel senso, sì, il circuito per regolare miglioriamo, però purtroppo leviamo il Macrovision, ma insomma vabbè, comunque vabbè ragazzi, comunque uno dei nell'era appunto della duplicazione delle cassette prese dai negozi di un video, delle duplicazioni e controduplicazioni e via dicendo, c'era un fenomeno che tra l'altro ragazzi io ho scoperto recentemente, no, veramente lo sapevo un po', però sai a volte non te capaci di, che è un fenomeno che esiste ancora, cioè oggi che non ha veramente senso sta cosa, no. Esiste ancora, però a maggior ragione era peggio una volta, perché voi dovete considerare che questo fenomeno che oggi si chiama i video screeners, no? I screeners. Invece una volta si chiamavano i film di prima visione. Perché voi dovete capire che negli anni 80/90 non è che il film che usciva al cinema usciva immediatamente in VHS o in videocassetta, usciva dopo un po', diciamo mesi a volte, sì come no, mesi. E praticamente che succedeva? C'era il tuo compagno di classe e ti diceva: oh, c'ho Ghostbusters. Come c'è Ghostbusters? Star Wars al cinema. Stasera se venite a casa mia se vediamo Ghostbusters, un film di prima visione, e se vantavano de sta roba, se vantavano. Poi tu andavi lì e chiaramente che succedeva? Tu vedevi, a parte che si vedeva tutto grigio, perché chiaramente che facevano questi con una telecamera, quindi stiamo a parlare dell'era del VHS, voi immaginate il sensore di una telecamera del VHS di fine anni 80/inizi anni 90, col buio, con gli effetti di persistenza dell'immagine e in più ovviamente con l'audio preso dal microfono della telecamera. Quindi, con le persone che ci passavano davanti e il commento di quelli seduti, chi scrocchiava, chi tossiva, chi mangiava, esatto, cioè, chi rideva. Quindi si vedeva una merda, perché si vedeva veramente, ragazzi, si vedeva proprio di brutto, proprio in una maniera tutto storto, tutto si vedeva brutto, i movimenti erano tipo costati, erano tutti costati e in più l'audio faceva proprio schifo, ma al di là della gente che parlava, chi tossiva, chi aveva il, insomma, era il microfono che registrava le casse del cinema, rimaneva le casse del cinema, e quindi il riverbero. E io mi sono sempre domandato che senso c'ha una cosa del cinema, cioè, eppure c'era la cosa che tu comunque c'è il vanto che c'è il film di prima visione, ma non si vede niente, sì, cioè. Però era il vanto di dire lo vedo e non ho pagato il biglietto del cinema, sì, me lo guardo, sì. E comunque questo fenomeno si è poi amplificato e migliorato parecchio, perché poi c'erano, lo dicevano, era una leggenda metropolitana, succedeva dappertutto, però dicevano sempre che a Napoli c'erano questi cinema dove piazzavano la telecamera sicuramente. Sul piede e facevano una proiezione sicuramente senza nessuno. Ma secondo me c'è proprio il proprietario del cinema stesso, sì, esatto. I telecine, esatto, lì era un telecine un po' più sportivo perché appoggiavano la telecamera fissa, non c'era nessuno nel cinema, per cui la registrazione veniva anche tutto sommato niente male, sì, poi queste cassette, sì, no, vabbè, no, ma io non ho visto, recentemente uno, devo dire la verità, ma proprio in DVX, sì. Cioè nel senso, e per quanto sia che comunque rispetto a quelli che vedevi prima erano sicuramente più accurati, però cioè la cosa peggiore ragazzi è l'audio è il 60% di un film, Cioè, vuoi o non vuoi, in certi determinati contesti l'audio è una parte fondamentale di un'opera cinematografica. Quindi, sai, vedi i colori un po' sbiaditi, vedi insomma, sì, l'immagine, il dettaglio decente, vedi un po' di rumore video, quello che ti pare, vabbè, puoi anche no, perché comunque il cinema è sempre un'opera anche fotografica, però l'audio non sempre. Comunque, vabbè, sentiamo un attimo questo racconto di Alex, che poi tutto sommato invece è pure carino come tipo di storia. Ciao amici teleascoltatori, prima di tutto scusatemi se non sono lì con voi, però è un periodo incasinato, per cui sto cercando di mettere insieme le cose e ho ritrovato il tempo per registrare questo piccolo aneddoto audio qui in automobile di pomeriggio, intanto che passano i pullman di fianco. Allora, il primo film che ho visto così in modalità screener, anche se loro non si chiamavano così, ma presi dal cinema, è stato Aliens Scontro Finale. Pensate che il film è uscito nell'86 ed è secondo me uno dei più grandi film d'azione di sempre, di probabilmente il miglior regista di film d'azione di sempre, che è James Cameron. Nell'86, io credo di averlo visto nell'87, inizio 88, l'ordine di grandezza era quello. Neanche sapevo che ci fosse, sì, ne avevo sentito parlare, però immaginate che allora non c'era internet, quello che sapevi dei film lo scoprivi da quello che vedevi in televisione. Credo che no, forse Chuck c'era già, però diciamo che non è che ero molto a conoscenza di questo film, pur avendo già visto il primo Alien, quello di Ridley Scott. Eravamo io e i miei due amici Fabrizio e Emilio, eravamo ragazzini, avevamo 13 anni, 14 anni così, e insomma ho detto loro: guardiamo, c'è questo film da guardare. Era un pomeriggio, ci siamo messi a guardarlo, si vedeva malissimo, si vedeva male, era anche probabilmente una videocassetta copiata da un'altra videocassetta ripresa dal cinema. Però il fatto che il film fosse così scuro, così sporco, cioè ha fatto sì che noi fossimo completamente rapiti dalla videocassetta. È stata una cosa eccezionale, meravigliosa. Io ancora oggi l'imprinting di Aliens Scontro Finale è proprio quello di un film proprio scrauso, brutto, sporco, che si vede male, anche perché poi nel film viene utilizzato il linguaggio della ripresa video male, fatta male, perché tutti i soldati avevano la telecamera sul casco, per cui Ripley e gli altri guardavano la situazione dalla loro console con gli schermini, per cui loro vedevano male questa cosa, e il fatto di vedere noi tutti male questo ci rendeva il film ancora più immersivo, paradossalmente. E la cosa più ridicola è che quando poi ho rivisto il film, tutte le altre volte che l'ho rivisto anche in alta definizione, pulito, mi è sembrato sin troppo pulito e sin troppo finto. Cioè, questo film aveva un sacco di problemi, neanche problemi, nel senso, era il 1986, gli effetti speciali li aveva fatti la Dreamcast Images, per cui si vedeva che erano modellini, era una cosa che non era fatta allo stato dell'arte. Cioè, considerate che qualche anno prima c'è stato Il Ritorno dello Jedi, che era molto tecnicamente molto più perfetto, per cui la visione vista male nascondeva tutti questi problemi, ce lo faceva rendere reale, mentre vedendolo visto bene, insomma, si capivano tutti i limiti della cosa, e il fatto di vederlo male ce lo rendeva ancora più puro, ancora più vero. E io devo dire che ho visto altri film, li ho anche odiati tutti quanti, però Aliens, che non ho mai visto al cinema, ma ho visto soltanto in TV, anche col videoproiettore, eccetera, eccetera, eccetera, per me l'esperienza di quella visione col televisore a 28 pollici, credo, di allora, in 4 terzi, ripreso male, che si sentiva male, per me ancora, cioè, Aliens Scontro Finale è quella roba lì, e sarà così per sempre, per cui ho un ricordo positivo del primo film che ho visto in questo modo e negativo di tutti gli altri. Però se ci ripenso, c'è ancora una barlume di amore di un mondo che era analogico, ed era analogico nel senso che non era connesso. L'internet il web sarebbe arrivato nel 93, 5 anni dopo, e il web nelle nostre case sarebbe arrivato 10 anni dopo più o meno, per cui quella roba lì è stato un momento bellissimo che ricordo veramente con tanto piacere. Probabilmente noi boomer o proto boomer possiamo avere nel cuore, mentre le generazioni prima e quelle dopo tanto. Detto questo, grazie di avermi ascoltato in questo fragmento di puntata, e abbraccio tantissimo i colleghi che non ho potuto incontrare direttamente. Ci rivedremo presto con un'altra puntata, perché per me gli anni 80 e gli anni 70 sono comunque robe che fanno parte del mio processo di imprinting nella vita. Ciao a tutti. Eh beh, anche perché ci siamo cresciuti negli anni 70 e 80, quindi salutiamo il nostro collega Alex. E, scusate, avevo chiuso. Prego, prego, potete parlare adesso. Ci sono. Ci siamo. No, la cosa carina è che, cioè, alla fine vedi che ad ogni cosa di questi fenomeni incredibili c'è, cioè, comunque legato sempre un ricordo, e un ricordo è sempre una cosa positiva, anche quando si tratta di una cosa negativa. Dall'altra, insomma, e non possiamo assolutamente negare che stiamo parlando della zozzeria, cioè gli screeners erano una zozzeria, e tu comunque quando ascoltavi a volte magari c'era il dialogo e a un certo punto dici: ma che ha detto? Perché c'è quello oppure quello che mangiava. Riguardo a questo mi ricordo anche che c'è stato il periodo delle prime, diciamo, copie dei DVD, no? Quando hanno iniziato a fare i DVD, che c'era una roba simile, che arrivavano i film che non erano ancora usciti, dove il film si vedeva benissimo perché utilizzava magari il master del DVD straniero che non aveva ancora la traccia in italiano, e la traccia in italiano ci mettevano quella registrata. Bravo. Quindi tu vedevi che si vedeva benissimo, esatto, e si sentiva di me. È vero. Adesso, È vero, che mi hai ricordato, sta cosa è incredibile, è vero. Infatti tu vedevi la qualità del video, dici: ah, vedi, oh, finalmente questo, ho preso finalmente la cosa. Poi senti, si sentiva proprio dalle casse del telefono. Esatto. Adesso, se quasi tutti i film, parecchi dei film che ci sono in giro adesso piratosi, diciamo, sono quasi sempre con un video perfetto, perché magari è stato scaricato via streaming da qualche parte all'estero, soprattutto nei paesi asiatici, o nei circuiti qualcuno li riesce a tirar fuori dai circuiti dei voli, nei voli internazionali. I film sono praticamente su DVD, e quindi circolavano quelli, ma mancava l'audio italiano. E l'audio italiano, questo era una di quelle uno di quei punti che avevo sotto, con scritto qui invece racconto quello che era una malattia di mio fratello, no? Che andava a registrare gli audio al cinema con un'attrezzatura, ma anche semi professionale, per poi produrre un video che di qualità buona, è un audio che era quasi sempre microfonico, triste. Esistono ancora oggi, normalmente li trovate quando vedete la scritta cam, audio mic, vuol dire che il video sarà bello ma l'audio sarà una schifezza. Nonostante la tecnologia, perché la tecnologia sul video, e ne parlavamo anche oggi con Carlo, potenzialmente da una ripresa scarsa con meccanismi di intelligenza artificiale eccetera riesci anche a farla diventare interessante. Sì. L'audio purtroppo non entriamo in questa in questo discorso, vi prego, perché no, comunque sull'audio non c'è molta possibilità. Al cinema registrato con microfono c'è riverbero, non me lo puoi togliere, è un casino. E niente, quindi esisteva già all'epoca. Ci sono anche delle tecniche del restauro audio, anche cose abbastanza complicate, ma certo non ti metti a fare un DVD copiato, insomma. Cioè. Mi ero dimenticato che esisteva già nei DVD, cioè i DVD che si compravano nelle bancarelle, che vendevano a pigne, c'erano lì proprio le pigne. Come con no? I DVD sfusi senza la custodia, esatto. Con la bustina di plastica. Quella che, come dicevamo, c'era il simpatico ragazzo nero che ci metteva la firma sopra, perché se non funzionava glielo riportavi e lui te lo cambiava, no? Esatto. E avevano anche una mezza copertina, era un quadratino stampato buttato dentro, e magari qualcuno di quelli era davvero con l'audio microfonico, o erano addirittura dei cam, cioè ripresi con la telecamera, sai. Lì lui vendeva, non sapeva cosa stesse vendendo, cioè c'era solo una copertina che indicava il film. Però è vero, i DVD con l'audio X sono nel periodo DVD è apparso, come oggi appare nello streaming, ecco. Bene, intanto in chat c'è questa, insomma, diciamo, questa doppia visione del fatto che chi ascolta ovviamente i film con il proprio vecchio impianto wifi da una volta, quindi ovviamente in stereo, e invece chi dice che comunque però l'impianto surround comunque arricchisce, ma in realtà anche quello del surround aggiunge un'esperienza in qualche maniera. Io mi ricordo che il primo film in Dolby Surround che ho visto è stato Platoon, e devo dire che l'hai visto a casa o al cinema? No, al cinema. Beh, a casa Dolby Surround te lo sognavi, sì. Guarda, io penso nel 2004 ci ho avuto il mio primo impianto Surround a casa. Sì, tutti più o meno in quei tempi lì, più o meno. Che c'era questo qua, che poi c'era amplificatore, preamplificatore, cazzintatore, roba. Già è arrivato il tizio che me l'ha venduto, ho detto: senti, vieni a casa mia, vieni a montare tutto, perché io non ci ho capito niente. Vabbè, comunque, e quando io ho visto il primo film in Surround con tutti gli effetti che arrivavano da destra, sinistra, dietro, roba, del genere, devo dire che l'impressione è... cioè, oggi siamo anche molto abituati, secondo me anche un po' la qualità generale delle sale medie non è neanche dei grandi livelli, perché in Italia noi abbiamo delle sale della Madonna, tipo appunto l'Arcadia, dove sono venuto finalmente anch'io, sono riuscito ad andarci a vedere Star Wars che tremava tutto, oppure c'hai sì, delle buone sale con buoni impianti anche 7.1 che però non fanno la differenza, insomma, diciamo così, non ci hanno poi investito così tanto. Comunque questo in buona sostanza è un po' una panoramica, poi ecco, andiamo a concludere con magari quello che volete dire voi, cioè nel senso la parola prima uno all'altro, però ecco, diciamo che questa è un po' una sorta di esperienza che volevamo condividere, perché sì, sappiamo che ne abbiamo già parlato più o meno di queste cose, ma secondo me, sai, quelle cose che tu sai di avere un po' toccato di qua, un po' nicchiato di là, e poi alla fine non hai mai fatto un percorso con una struttura logica, e questa volta abbiamo provato a dare un senso anche al fatto che questa dell'era dell'on video comunque sta in un momento particolare, anche rivoluzionario, nel quale invece di utilizzarlo come tante tecnologie che che figa, c'è una nuova tecnologia, l'abbiamo usato anche in maniera creativa e anche in maniera furba, o anche insomma cercando di fare un po' i paraculi, però insomma è vero anche che poi abbiamo visto anche tanta sosseria, tipo i screeners e le cassette duplicate talmente tanto che alla fine diventavano in bianco e nero, appunto, come dicevamo insomma con Carlo. Quindi so che Davide voleva raccontare un'ultima cosa, poi Carlo, e poi andiamo a fare le conclusioni. Vabbè, allora io l'ho denominata la malattia, perché qua era mio padre che aveva una particolare malattia, chiamiamola così, una mania, se vogliamo ridicola, iniziata ai tempi delle audiocassette con i CD. Cioè mio padre era un grande collezionista di musica sinfonica e aveva tutte le cassette possibili, i dischi, i vinili, poi sono usciti i CD, ha preso i CD. E poi la musica sinfonica in cassetta era tosta, cioè. Comunque mio padre cosa faceva? Prendeva i CD, aveva le cassette, registrava con un impianto molto molto serio che aveva mio padre, dal CD registrava delle cassette molto buone e poi trasferiva il nastro registrato dentro le cassette originali, quindi buttava via il nastro che davano insieme alle cassette originali, che sarà stato pure buono ma lontano da quello che produceva mio padre aveva questa hobby, chiamiamolo così, di conversione da tutto quello che aveva di cassette vecchie, che vecchie o nuove, ma comunque con l'audio registrato con un nastraccio che ti vendevano loro, lui ci metteva il nastro figo, faceva tutto questo lavoro, aveva tutta un'attrezzatura per smontare le cassette, tagliare il nastro, fare tutte le robe, e questa mania poi si è spostata anche sulle videocassette. Cioè mio padre a un certo punto, all'epoca dei DVD, sono cominciati ad arrivare i DVD, e mio padre aveva lì 2 milioni di cassette con dentro i film originali, che poi a un certo punto i film originali hanno cominciato a costare poco, in realtà sono uscite delle edizioni molto economiche, costavano pochi soldi, le regolavano con le riviste, e tu avevi la cassettina con la sua bella copertina, con tutte le etichettine originali, con dentro un film che si vedeva male, se vogliamo, mediocre. E mio padre aveva il DVD di quel film, lo registrava su una videocassetta di buona qualità e poi trasferiva la videocassetta, cioè il nastro, smontava la cassetta, tirava fuori il nastro, lo ficcava dentro al nastro della cassetta originale e archiviava tutti i nastri perfetti che si vedevano bene, le videocassette che si vedevano molto meglio rispetto all'originale. E questa l'ho considerata una specie di malattia, era un passatempo, ma che non aveva nessuna utilità, non aveva scopo, però mio padre si divertiva così, che ti devo dire, passava il tempo a trasferire film su film e prima lo faceva con, quindi creava delle VHS di una qualità migliore dell'originale praticamente. Sì, però non è ma che forse per questo che a te c'hai i 60 hard disk dei backup, può essere che ti è rimasto l'imprinting in qualche maniera. Avevi già il DVD, no? Che senso ha fare la cassetta? Perché poi dopo la cassetta ce l'hai lì. Per assurdo ci ha visto, giusto, perché sai che i DVD adesso come i CD soffrono del disc rot, del fatto che non sono eterni in realtà. Certo. Non so, certo. che hanno trovato questo problema, che in realtà i nostri DVD CD dureranno meno dei nastri alla fine come tempo. Infatti state attenti, se conservate soprattutto dei CD di backup dei dati, fate in fretta, andateli a riprendere e trasferiteli da qualche parte, perché molti, soprattutto CDR eccetera, già adesso dopo 20 anni sono illeggibili, cioè non li leggi più. Quindi approfitto per dire che esistono in commercio dei CD che si chiamano, dei DVD che si chiamano long term, sono un po' più costosi e sono fatti in un materiale differente, sono garantiti per, mi sembra, 1000 anni o qualcosa del genere. Sono accorti dove era il problema e quindi adesso sono un'edizione speciale, li trovate anche su Amazon, si chiamano long term metal disc, oggi neanche a spenderci i soldi, insomma, dai. Lo so, però c'è qualcuno, a me l'unica cosa che mi scoccia sono magari i vecchi DVD capito, che cioè magari film, no, cose che poi sai che poi andranno a ramengo, pensa solo dei dati digitali, dei documenti, sì, eccetera. Sì. La conservazione a lungo tempo è diventato un problema negli ultimi anni, che gente si stanno ovviamente ponendo questo problema, perché anche un hard disk, se tu prendi un hard disk e anche non lo usi e lo metti via, esatto, ha il problema della magnetizzazione permanente, cioè è ci garantito, sono tante... 10 anni, esatto, quindi la ritenzione 10 anni, anche le flash memory. Io quello che consiglio sempre a tutte le persone, 10 anni, quello che consiglio sempre a tutte quante le persone è quello di, ovviamente, di fare un master dei vostri backup su un disco d'oro, e insomma, se ci avete l'opportunità, o di cristallo, anche su un disco di cristallo, e poi dopo lo conservate, però fate attenzione a non farlo cadere, perché dopo il problema, insomma, si pone ugualmente. Però il problema, però, questo noi lo diciamo da un po' di tempo, in effetti. Poi tra l'altro noi abbiamo mandato in pensione proprio 2 settimane fa un hard disk che per 7 anni ha lavorato costantemente con tutto il materiale di Runtime Radio, che se puta caso sputtanavamo quello, insomma, dicevamo almeno tutti gli assets lavorativi, le cose. Invece adesso è stato mandato a riposo perché ha cominciato a fare cose strane, e dopo essere stato mandato a riposo è stato backuppato, e poi abbiamo adesso operativo un altro che però è in SSD, quindi insomma abbiamo cercato di fare un upgrade per questo. Però 7 anni per un hard disk che ha lavorato costantemente con l'editing, attento con l'SSD, adesso non ti metto una preoccupazione in più, però Davide mi potrà probabilmente confermare che mentre con quello vecchio magari ti è durato 7 anni, però ti sei accorto quando si stava rompendo. Questo lo so, questo lo so. Un giorno all'altro non va più. Lo so, vabbè, ma comunque c'è tempo, un anno lo sostituirò con uno nuovo, cioè nel senso lo userò anche questo come archivio e lo butterò dentro al cassetto. Insomma. Sì, ma l'idea è avere 2 copie in ogni caso. Sì, lo so. Fortunatamente per ora ce l'ho. Però okay. Ho pubblicato il link, sono Blu-ray, mi sono sbagliato, non sono DVD, quindi sono da 25 giga, quindi neanche pochissimo, e sono lifetime archivio a lunga durata, c'è scritto lifetime, per cui beh, sai, lifetime non è che durano per tutta la vita, a me, alla vita mia, saranno rimasti 30 anni, insomma 40 anni proprio a dite tutto, insomma. No, avevo letto delle caratteristiche, non mi ricordo dove, avevo cercato, pare che siano proprio migliaia di anni, cioè tra 1000 anni non ci sarà nessuno al mondo. Infatti, però quando arriveranno degli alieni archeologi a scoprire la nostra civiltà oramai estinta, troveranno sti dischi e dicono: ma vedi questi che stronzate che facevano. Vabbè, ma un alieno lo legge con la Barbie, cioè la Barbie giocato con sua figlia legge Blu-ray tranquillo. Esatto. Però dipende da che cosa gli mozzichi alla Barbie. Comunque, Carlo, dai, chiudiamo sta puntata, dai, tu c'hai qualche... abbiamo fatto un bellissimo, diciamo, resoconto di un mondo che non esiste più. Molti dei nostri, diciamo, coetanei gli avremo riattivato delle celle di memoria, insomma, però soprattutto è bello da raccontare magari anche a persone che non l'hanno vissuto, certo, ragazzi giovani, certo. Che mia figlia ha 22 anni e le VHS le ha fatte in tempo ancora a vedere quando era piccolina piccolina, ma già non se ne ricorda più. Mio figlio che ne ha 12 non sa di che cosa stiamo parlando. Un giorno gli ho fatto vedere una VHS, l'ha guardata come se fosse un mostro alieno o qualcosa che sì, perché poi oggi se tu ci pensi anche come design, no? Se tu ci pensi oggi un ragazzo che è abituato a dei design diversi, sottili, eleganti, no? Gli porti sto cassettone, dici, ma che monolite, esatto. Ma questo io per esempio tiene dentro. Esatto, solo uno, ha detto vabbè. Per esempio Matteo, cioè, lui c'aveva, nel senso, gli Aristogatti lì, che l'ha visto e rivisto, quella l'ha veramente consumata, a un certo punto veramente si vede in bianco e nero, quindi alla fine, cioè, nel senso, se vai a vedere, no, ancora alcuni magari che hanno 20 anni oggi, secondo me comunque l'hanno sfiorato, se non anche un po' leggermente vissuto, ma noi l'abbiamo proprio attraversato. Tra l'altro, secondo me, quello che dico, dato che so che questo programma comunque lo ascoltate, se vi capita, comunque è anche interessante sapere magari i vostri ricordi, le vostre esperienze o quello che va suscitato comunque, quindi non lesinate a commenti, che è carino che magari le puntate successive comunque li leggiamo e magari approfondiamo determinate cose, anche se magari la prossima puntata parlerà di tutt'altro. Mentre che vi ricordo, io domani mattina alle 7 sono live di nuovo con il mio nuovo programma che si chiama Il Grande Reset, già la terza puntata, anzi la quarta puntata, devo dire che mi piace farlo, mi sto divertendo e vedo che insomma piace anche a chi l'ascolta. Domani mattina saremo live, sia io che Francesco, sarà ospite Francesco, e parleremo di applicazioni e giochi che puoi trovare sul Play Store di Google, che insomma, diciamo, un po' truffaldine, un po' che ammiccano alla ludopatia, che ti attirano l'attenzione, che ti incitano alla vittoria sicura su certi giochi, insomma, che dovrebbero essere un po' più regolamentati, diciamo così, quello che suscitano, quello che scatenano. E domani sera torna Runtime by Night, per chi vuole, anche voi se volete partecipare. E la domanda che ci faremo all'inizio è: qual è quel sogno che l'avete vissuto talmente bene, era talmente bello, che quando vi siete svegliati ci avete messo un po' per realizzare che in realtà non era la verità, insomma, quindi ci siete pure rimasti come degli stronzi, siete rimasti delusi, esatto, proprio degli stronzi siete rimasti. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio. E domenica e sabato mattina, ovviamente, alle 8:30 saremo live io e Michela con Disordinati Informati. Questi sono i prossimi tre appuntamenti. Detto questo, invece, io ringrazio Davide Gatti, Survival Hacking. Grazie a voi di avermi ospitato, e vi ricordo che domenica uscirà il video e stasera è uscito un nuovo video sullo Z80. Così, grande lo Z80. Sì, un computer in kit Z80, giusto? Esatto, sì. Il primo episodio di 11, la Madonna. Sì, Luca lo costruisce tutto come al solito. Ok. Grazie a Dario. Grazie, Dario. È il suo computer. Ok, e salutiamo e ringraziamo anche Carlo Sant'Agostino, Archeologia Informatica. Grazie a tutti. E, Davide, scusa, hai detto che esce questa domenica? Domenica prossima esce. Ah, il nostro questa domenica contributo. Saltiamo il nostro video, giusto? Esatto. Okay. Sì. Bene. Va bene, quindi comunque andate sul canale Archeologia Informatica o riascoltate i podcast, e comunque faremo uscire qualcosa sul canale sicuramente questa settimana. Entro fine settimana qualcosa uscirà sul nostro canale di Archeologia Informatica. Ok, mo ci organizziamo, siamo un po' leggermente in ritardo perché ci dobbiamo coordinare su diverse cose, ma non troviamo il tempo, ma per voi c'è sempre il tempo qui su Runtime Radio. Detto questo, ragazzi, grazie di tutto e buonanotte, e a domani mattina. Ciao. Ciao.